Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Grazie anche a Leopoldo Tosi e a Valerio Biancardi per il materiale, lo prenderemo nella dovuta considerazione.